see Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 40. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Ciao Sal. Oggi ne abbiamo da dire di cose. Beh, ce ne sarebbero tantissime da dire, però dai, cerchiamo di contenerci e via, cominciamo, dai. Allora, diamo intanto subito la parola a Grande Coach, che come sempre nella sua rubrica ci fa un po' un quadro della situazione, quindi la parola a Coach Argondizio. Buonasera amici tifosi Green Bay Packer fans d'Italia, vostro coach Vinny Argondizio che vi saluta. Un breve commento sui nostri Packers. Grande vittoria contro una squadra come i Raiders, che è una squadra giovane che sì, commette tanti errori, però una squadra che è in crescita e ha dato un po' di filo da torcere a noi. La grossa domanda è se Mike McCarthy e Aaron Rodgers sono sulla stessa pagina. Penso che quest'anno non sono proprio in un'ottima sintonia, o ancora non lo sono, perché praticamente sono poche partite che sta lavorando di nuovo insieme. Questo può causare qualche ritardo? Penso proprio di sì. Più che altro quello che mi preoccupa è il grosso problema di non segnare nel red zone. Questa è una cosa che deve migliorare assolutamente, e contro una squadra solida come Arizona Cardinals questa settimana potrebbe essere un problema. Quello che mi piace invece di vedere una difesa che continua a lavorare bene, creare delle opportunità e segnare. Penso che il draft di quest'anno è stato eccezionale, perché vediamo Demarius Randle e anche Jake Ryan giocare, specialmente in difesa. Quentin Rollins ha aiutato, c'è una, in generale, un buon contributo. Tornando all'attacco, bisogna che veramente questi receivers fanno qualcosa per aiutare Aaron Rodgers. Vedendolo in questa conferenza stampa un po' tranquillo, un po' scocciato quando parla, io penso che non è in generale per le scelte che fanno le squadre, fa la squadra o fanno il coaching staff, ma penso che lui è un po' disgustato con i suoi numeri non sono alti, non sta lanciando per i 300 più yard come fa sempre, cosa che lui adora, cioè questi numeri che sono la sua consuetudine. Però alla fine l'unica statistica che conta è che hai un punto in più dell'altra squadra. Però quarterbacks, receivers, running backs sono molto molto orgogliosi di questi numeri. E allora, sai, questo è importante per loro. L'ultima cosa è Eddie Lacy, spero che riesce ad arrivare al post natale qualche chilo in meno. Siamo, sia io che Eddie, siamo molto sovrappesi ultimamente. Sì, Eddie ha avuto qualche partita buona, ma non è Eddie Lacy cui siamo noi abituati. Go Pack Go, e adesso speriamo che contro Arizona portiamo a casa la vittoria, così chiudiamo anche il discorso della conference. Buona giornata a tutti. Come sempre è grande il coach, saperne quanto lui. Ecco, ha subito introdotto un argomento un po' spinoso. Ecco, nonostante arriviamo da 3 vittorie consecutive, anche domenica sembra che Rodgers, nella press conference dopo partita, non fosse molto molto contento e non ha neanche mascherato tanto bene, sinceramente. Io un po' lo sapete qual è il mio pensiero, ecco, la mia semplice opinione personale, e ribadisco personale, è che magari Rodgers dovrebbe smettere di fare un po' il bambinone, insomma, in quanto lui è pagato anche bene, è il giocatore più pagato della Lega, mi risulta essere, ok? E quindi che faccia il professionista. Detto questo, non sto sicuramente dicendo che dobbiamo andare via Rodgers o quant'altro, rimane il quarterback più forte della Lega. Non capisco questo suo malcontento, anche perché, vabbè, le ultime due partite sappiamo che c'è stato il cambio del play calling, che lì già ti chiama Mike McCarthy, e nelle ultime due partite, secondo me, ho visto un Rodgers abbastanza discreto, non quello, cioè, quello sensazionale che è il giocatore dell'anno scorso, ok? Ma un giocatore molto molto buono, e sicuramente in ripresa. Il fatto che continui a contestare o che esprime il suo disappunto per che gli hanno portato via la Michetto, non so cosa sia, anche perché effettivamente se si vadano a sentire le conferenze stampa, nelle ultime due praticamente è proprio evidente che non è contento del fatto che sia McCarthy che chiami i giochi. Fino alle settimane scorse, invece, secondo lui, il play calling era ottimo, non c'era nessun problema, ma il problema era l'execution. Dopo la partita di Dallas, il problema è diventato altro, fino a dire, dopo la partita di domenica scorsa, che la squadra non ha la detta clear cut direction. Quindi, non lo so, sinceramente i problemi mi pare ce ne siano parecchi in attacco in questo momento. Però, pensasse a giocare e poi a bocce ferme, si mettono in stanzetta, magari con Ted Thompson, lavano i panni in famiglia, che si insultino quanto vogliono e che ne vengano fuori rafforzati da questo, perché comunque non penso che il rapporto tra i due sia a livello del o io o te. Non ancora, perlomeno, dai. No, beh, sicuramente no. Ci sono dei dissapori che erano stati gli anni che nascosti dopo il championship dell'anno scorso e che hanno portato alla modifica di McCarthy. Che ha deciso di smettere di chiamare i giochi, anche se lo fa in maniera più che discreta, secondo me. Però la situazione era arrivata al momento che non si poteva più andare avanti come si andava avanti in quel momento lì. E quindi è stato giusto il cambio di rotta in quel momento. Dopo dire bisogna cacciare McCarthy, mi pare difficile su una stagione che comunque sei 10-4, che tu sei 10-4 adesso e 5-2 in trasferta, ok? Quindi meglio dell'anno scorso da un certo punto di vista. In trasferta sicuro, ufficiale. Ecco, l'anno scorso eravamo 4-4, quindi cioè comunque mandare via McCarthy è una cosa improponibile. Mandare via McCarthy perché cioè, ovviamente discorso ipotetico, mandare via McCarthy perché te lo chiede il tuo giocatore simbolo. Comunque è una scelta che io non appoggerei, ok? E Ed è un po' questo come ha detto il nostro presidente Maurizio, cioè i giocatori vanno e vengono, i Packers restano, per cui sinceramente è sempre meglio pensare al bene assolutamente. dell'organizzazione piuttosto che alla volontà del giocatore che, insomma. Sì, anche perché questo è uno dei comportamenti che più si critica, più si gradi di Brett Favre, il fatto che facesse il bello in cattivo tempo. Adesso, per l'amor di Dio, stiamo parlando io e te, quindi c'è uno stiamo chiamando, non c'è niente di certo dietro le nostre parole. Però, secondo me, e visto quello che è il momento della stagione, Rodgers dovrebbe cominciare a fare il professionista e giocare la partita. Ecco, Cioè, sostanzialmente non deve rompere il cazzo, ecco, lo dico in io parole visto che... poche. No, Però, perché, cioè, sì. fondamentalmente, io te l'avevo detto fin da subito, tipo, hai visto la conferenza stampa di Aaron, perché era veramente incazzato come una iena. Però, cioè, voglio dire, secondo me era incazzato perché effettivamente i suoi numeri, in quanto a passer rating e tutto il resto, sono stati una merda, ma a me sinceramente, e penso in realtà in generale al tifoso di una squadra, interessino altri numeri, che sono il numero di punti fatti, il numero di punti subiti in una partita, quindi se hai vinto o perso, il numero di vittorie e il numero di sconfitte. E questi numeri sono ben più importanti, secondo me e secondo molti altri, del 68.8 di rating che ha avuto nella partita, che è stato una merda. Certo, se non avesse lanciato quell'intercetto a caso, magari sarebbe stato più Sì, coatto, ma in ogni caso, sti certo. cazzi, cioè voglio dire, finché vinci, vinci. Cioè, vincere male, giocando male in trasferta, non penso che sia una cosa così brutta. Per quello ti dicevo anche l'altro giorno, magari sarebbe meglio che giocassimo in trasferta sempre ai playoff, quindi un sesto seed, perché così almeno non hai il problema di giocare di merda e avere il lambo che ti si torce contro o ti si ammutolisce, e Sì, quindi... che poi. Cioè, interpreto il tuo merda, ok? Perché fondamentalmente stiamo parlando di un attacco che cioè, non è che non faccia punti o che non metta punti sul tabellone, è un attacco che comunque fa segna, ok, è che noi critichiamo, o siamo, forse siamo ipercritici, nel senso che noi ci aspettiamo che, visto quello che facevamo gli anni scorsi, il nostro attacco debba fare punti ad ogni possesso. Cioè non funziona così nell'NFL effettivamente, ma io sono il primo a pensarlo, ecco, voglio dire, perché ogni volta guardi la partita, vedi i primi due drive che finiscono a three and out, girano le balle, ok, perfetto. Invece no, non è così. Sentire l'NFL è molto difficile, e noi probabilmente siamo anche stati viziati in questi anni dal nostro attacco. Quindi ci sta anche una stagione un po' di alti e bassi. Poi, se poi vai a vedere il passer rating o i numeri di Rodgers e domenica, sono viziati dal fatto dei drop, E perché dell'intercetto, sì, esatto. dell'intercetto finale e del drop, perché davanti a Adams ha preso un TD, okay, che ce l'aveva in mano, e un altro big play dove chi aveva la palla ce l'aveva in mano. Okay. Uno l'ha mancato, mi pare, Kuhn, mi pare, e non mi ricordo, ce n'è un Stato altro un due, drop ce ne di sono. Richard Rogers. Un drop di Richard Rodgers, il secondo della stagione, quindi per l'amore di Dio può capitare, però comunque ci dai questi 3-4 passaggi in più ai tuoi 300-350 yard che vuoi fare. Che poi comunque, cioè, io ho detto ha avuto dei numeri di merda ed è incazzato, però io te l'ho anche detto oggi o ieri, non mi ricordo, penso che Aaron abbia comunque giocato bene, a parte il sack che ha preso da Mac in cui ha tenuto la palla per un'eternità, la potevo liberare prima, e l'intercetto che è uno dei lanci più stupidi che gli abbia mai visto fare. Ma gliela data, voleva dargliela avuta, perché l'altro si messe in mezzo. Non è stato accurato nemmeno nel lanciarla agli altri, comunque. A parte quello, io penso che abbia giocato bene, è stato molto più nella tasca, e quindi qua adesso ti dico quello che penso su perché Aaron si è incazzato. Perché allora, lui è stato molto più nella tasca, ha fatto neanche uno scramble, e quindi è stato molto più pocket passer. Poi correggimi se sbaglio, a me è sembrato così. E questo mi ha fatto pensare ad una cosa che avevo letto prima della partita, cioè un articolo del Washington Post su Aaron al Butte Community College. Non so se l'hai letto. Se non l'avete Assolutamente no. letto, andatelo a cercare perché è molto bello. In pratica, quando Aaron non è stato reclutato da nessuno uscendo dall'high school e ha incontrato il coach della squadra di football del Community College di Butte, gli ha detto: "Ok, io vengo, ma dovete farmi giocare come dico io, se no non vengo." Allora, come dice di giocare lui? Lui voleva giocare come giocava esattamente qualche settimana fa, ossia provando ad inventare. E io ho pensato, magari il fatto che adesso sia così incazzato e avendo notato il fatto che sia stato molto più nella tasca e molto più, diciamo, costretto a stare all'interno della tasca senza fare scramble, mi ha fatto pensare a una cosa del tipo, mi fa schifo giocare così perché io non voglio giocare così. E si ricollega magari anche un po' al fatto che invece con Clemens praticamente ogni azione era un vediamo cosa inventa Rodgers. Per cui ho pensato, boh, magari semplicemente McCarthy sta cercando di riprendere in mano le redini e di dargli meno libertà non solo nella scelta dei giochi di cui abbiamo parlato un sacco di tempo in passato, Certo. ma anche in campo quando ha la palla, ossia tu fai quello e non stai lì a, insomma, provare a inventare qualcosa. Comunque lo fai molto meno rispetto a quanto ti fossi abituato a fare quest'anno. Può essere? Vabbè, si vista così, sicuramente sì. Sicuramente il fatto che lui abbia meno libertà di quanto ce n'avesse quando c'era Clemens a chiamare i giochi, quello è appurato. Okay? Il fatto che sia stato nella tasca, sicuramente sì, anche perché l'offensive line ha fatto un ottimo lavoro. Il sack che dicevi di Mac, forse è stato una delle poche volte che forse stavo cercando di uscire dalla tasca ed è stato sgambettato, mi pare. Sì. Per quanto riguarda il resto, ovviamente devi fare i conti con quello che in questo momento hai in casa. Esatto. Purtroppo hai Adams e siamo al limite del basta. Questo. Hai James Jones che non si libera neanche se a marcarlo ci sono io e sono tutt'altro che veloce. Okay. Però ti spingerebbe indietro e si libererebbe così, eh. È una sua giocata tipica, infatti secondo me sotto la landing andamento degli arbitri che lui le chiamano magari una volta su due, ad altri non la chiamerebbero mai, per dire. Hai Cobb che secondo me non è al 100%, però è anche sempre raddoppiato, triplicato, e in questo momento secondo me Mike sta cercando in tutti i modi di mettergli la palla in mano o di creare un mismatch per sfruttare le sue caratteristiche, e questo è sicuramente un punto a favore di McCarthy. Hai Abrederis che forse è il miglior ricevitore che in questo momento hai, ma hai ogni volta la paura che si infortuni, e Janis che per quanto sia un fenomeno negli special team, cioè non sa correre una run, purtroppo è per quello che non la vediamo in campo. Qui è due tight end di cui uno scompare e riappare a piacimento, cioè questo è il tuo attacco in questo momento, non hai tante altre armi, sinceramente. Infatti, se proprio si dovesse cercare un colpevole a posteriori del perché l'attacco sta giocando così, eccetera, eccetera, visto che il personale a disposizione è questo, si potrebbe pensare che è stato fatto un errore di valutazione con il personale, soprattutto i ricevitori che si avevano a disposizione. Per dire, loro hanno magnificato le doti e le lodi di Davante Adams nel corso della scorsa off-season. Davante Adams, hai detto anche te, è praticamente un bust. E nel momento in cui Nelson si è infortunato, loro pensavano di avere un È nel ricevitore momento che... in cui Montgomery si infortuna, tra l'altro, no? Esatto. Mettiamo che. Nel momento in cui comunque abbiamo avuto intanto subito Nelson che è andato giù, loro pensavano di avere comunque un altro numero uno che era Davante Adams. Davante Adams sta dimostrando di non essere neanche un numero 6. Per cui sì, se proprio si può dire, si poteva fare una valutazione diversa sul fatto del talento che si metteva a disposizione di Rodgers. In questo momento, parafrasando un articolo della Press Gazette, stiamo comunque nelle ultime partite trovando un modo di vincere la partita. Perché mentre gli anni scorsi sapevamo che c'era l'attacco che metteva su 40-50 punti a partita e quindi nascondeva quelle che erano del back da altre parti, in questo momento stai trovando virtù che magari non avevi, pensavi di aver nascoste. A Detroit era il Richard Rodgers che ti fa 150 yard e che ti prende quella palla, contro Dallas è Lacy e Stark che arano il campo. Contro Oakland è la difesa che mette su punti e poi fai quel drive di 9 minuti con Cobb nel backfield che a me è piaciuto tantissimo. Ed è sicuramente una virtù avere, perché vuol dire hai probabilmente, a differenza di altri anni, diversi modi di poter vincere la partita o comunque di stare in partita. Infatti non capisco tutto questo casino, perché alla fine è stato Aaron il primo a fare del casino, perché quando ti presenti in conferenza stampa così lo sai che poi la gente ci ricama sopra e probabilmente volevi che ci ricamasse, perché... Ma anche perché se tu parti, se noi torniamo indietro di una settimana, abbiamo vinto con Dallas, ok, perfetto. C'era gente che ci dava sconfitte contro Dallas, anche gente che parla di Green Bay ogni giorno. E parlano di partite contro Oakland, c'è molta gente che ci dava sconfitte contro Oakland, e invece la partita non è, fondamentalmente, non è mai stata in dubbio la partita. E poi... Ovvio che non sei bello da vedere, però cioè, sono abbastanza combattuto, quando te l'ho scritto ieri, forse l'ho scritto, quando si commentava tra me e te così su WhatsApp. Però è difficile da commentare perché tu sei ipercritico perché ti aspetti che la tua squadra sia la squadra che vada fuori e faccia punti, se non ogni drive, un drive ogni due, che finisca con 40, 3, 40, 35, 40, 42 punti, 45 punti a partita. E invece non è così sempre. Sì, Ovvio che non stiamo giocando un bel football, quello è sotto gli occhi di tutti. 10-4 stiamo riuscendo a sfangarla. 10-4 in cui in 3 delle 4 sconfitte hai avuto il pallone per pareggiare barra vincere, alla fine non ce l'hai fatta. Per cui, non lo so, a volte rimango un po' Carolina è così. 14, esatto, Carolina è 14-0, si è fatta rimontare dal 35-7, qualcosa del genere. Saremo qui, cosa dovremmo dire allora? C'è neanche Carolina a 14-0, ma è lontano dall'essere perfetta, secondo me. Io mai come questa NFL non vedo una squadra che puoi dire, ah, ok, questa è la squadra che arriva al centro. Forse Pittsburgh, direi adesso in questo momento. Siamo 10-4, siamo in playoff, quindi obiettivo minimo della stagione raggiunto, possiamo dirlo. Perché per vincere il Super Bowl devi andare ai playoff prima, lo ricordo a tutti. Sì, esatto. E poi ci sarebbe altra parentesi che sarebbe, ci vorrebbero 3 puntate, se sarebbe giusto andare all-in, se è giusto essere una contender per 15 anni consecutivi. Io sono della mia opinione, io preferisco essere una contender per 10-12 anni consecutivi, poi noi lo siamo da 20, alla fine 25 anni, Per esempio, però. ti chiedo una cosa, no? L'anno scorso, finita la stagione, se tu avessi dovuto dire ok, adesso faccio l'in, con cosa avresti fatto l'in? Nell'attacco o nella difesa? Ecco. Eh beh, avresti sicuramente detto nella difesa, ti serve quella persona in più Allora, adesso, perché l'attacco sembrava una cosa esplosiva l'anno scorso. no? Tu avresti fatto l'in nella difesa e ti ritroveresti una difesa che concede quanto? Invece che i 17 che concede questa, 14? Bene. L'attacco è il problema di questa squadra, non è la difesa. Quindi a Ah che sì, cosa quest'anno sarebbe sì. servito andare all'in? A incasinarmi il cap e andare avere la possibilità magari di essere più forti, tra virgolette, per 2 anni. E poi fra 2 anni avere delle decisioni da prendere impopolari, sicuramente, o magari addirittura dover ricostruire stati 10 anni a scegliere nei tiri bassi del draft. Sì, in ogni caso ci vuole pragmatismo, sia nel gestire, nell'impostare una squadra che anche in campo. E secondo me, nel momento in cui vai sopra 14-0, e sto parlando della partita di domenica scorsa, è normale, secondo me, cercare di cominciare a gestire il risultato, di non cercare di segnare il più possibile e tutto il resto. Poi, alla fine del secondo quarto, Starks non fa quel fumble, prendi almeno 3 punti e loro non ne segnano 7. Cambia. Sì. Non lo so, ci togli i drop, il fumble, l'intercetto idiota e tutto il resto, sarebbe finita molto con molti più Sì, punti. Poi è vero che hai siamo sempre ai segnato. sei, ma però è vero. È vero che nel primo tempo hai fatto 97 yard, però nel secondo ne hai fatte 196. Sì, però 97 yard anche perché cioè, devi leggere nella partita, venivi praticamente anche il tempo di possesso era tutto a favore degli Oakland, perché fondamentalmente ti sei trovato 14-0 senza avere mai l'attacco in campo praticamente. A quel punto là hai cercato di stabilizzare un gioco di corsa che domenica non andava da nessuna parte, ok? Più per i meriti di Lessi forse stavolta, ok? Perché l'offensive line ha avuto dei buoni grade, sinceramente. E a quel punto lì è ovvio che i numeri sono bassi. La cosa veramente preoccupante per questo attacco, però, questo vabbè, proviamo a entrare un po' più nello specifico, è la conversione dei terzi down. Questo sì, nel senso, domenica scorsa è stata 4 su 13, molto bassa, è stata 2 su 6 nel primo tempo e addirittura peggio, 2 su 7 nel secondo tempo, per cui. E soprattutto le chiamate in red zone. Domenica è stato molto brutto, nel senso 1 su 5. Anche se in realtà in stagione siamo al 59%, per cui non è malissimo, potrebbe È essere più solamente alto, dalla settima partita che sono peggiorati, però. siamo sempre Esatto. lì. Però sì, diciamo che io ho trovato abbastanza inspiegabile non correre dritto e forte, lo dicevamo anche nei commenti in diretta, insomma. Correre Non lo fa dritto mai, e sinceramente, però forte. quello lì Cioè, non è. della serie deve essere una cosa del tipo, ma gli altri si aspettano che lo faccia, per cui non lo faccio, così Cioè, loro oddio, lo sanno quello che faccio. secondo me l'hanno fatto una volta, ma l'unica volta che l'ha fatto, cioè lì si è trovato due linebacker, praticamente un defensive tackle praticamente nel backfield e quindi si è spostato e ha avuto una perdita di 3 yard. L'ha fatto una volta, secondo me l'ha fatto. Sì, poi magari se fosse rimasto più o meno su quella yard, avremmo potuto anche cercare di giocarci il quarto down, però non è Ah stato beh, facile. sicuramente sì, sicuramente sì. Però Però è c'è vero. proprio una cosa in cui bisogna migliorare, questa qua, ecco, non so come, nel senso che io penso sempre che il problema principale sia l'esecuzione, però vabbè. Tu hai anche detto che avevamo corso poco, secondo te, o meno, è vero, abbiamo fatto correre meno del solito, ma domenica abbiamo fatto 27 corse, di cui 20 tra Lacy e Starks, Esatto. 4 di Kuhn, 4 di Cobb e 3 di Kuhn, quindi non è che non abbiamo corso, Sì, ci però abbiamo se provato. fai bilancio tra run e pass, 27 corse, 39 tentativi di passaggio. E diciamo che sarebbe ottimale anche per come vuole fare McCarthy un 50-50, al massimo 52-48 per l'uno o per l'altro, ecco. Io avrei insistito sì di più sulle corse e di più sulle corse di Lacy, in realtà perché comunque ha dimostrato che, vabbè, 11 corse, 23 yard è abbastanza ridicolo, lo so. Però gli dai una ventina di tentativi, di portate, e magari qualcosa riesce a saltare fuori. E magari non perdo di 2 punti la semifinale del Fantasy contro Giancarlo, per dire. Mi bastavano 20 yard, ecco, lo dico qua, per 20 yard. Allora, adesso si spiegano tante cose. Quindi la nostra puntata è fondata praticamente sulle nostre scelte del fantasy. Vabbè. No, ok, io guarda, per l'amore di Dio, non lo trovo scandaloso il fatto che non si sia insistito. Insomma, le corse non andavano e poi hanno scelto quella formazione lì che ha mangiato 9 minuti di cronometro, che anche lì hanno fatto 98 yard, mi pare, in 9 minuti, si è fermata appunto sulla goal line e in 5 tentativi non si è andato dentro. Tacco, boh, dico la mia sull'attacco, a Rodgers a me è piaciuto domenica, per assurdo, le corse no, i wide receiver, sono ingiudicabili secondo me, no, non saprei cosa dire. Speriamo di vedere, ecco, qui ha detto una cosa giusta Rodgers. Magic deve stare in campo un po' di più. In realtà lo è stato, nel senso ha avuto record di snap in carriera per lui, finora 27, per cui. Ah, tra l'altro ho fatto anche un pancake block su un'azione di Su corsa, Woodson. È tanta vero. roba. Woodson È vero, che ha annunciato che si ritirerà, mannaggia la troia. è vero. Vediamo se andrà nella Hall of Fame come Raider o come Packers. Sai che ci sono quelle maglie a metà Eh sì, ci che. starebbe secondo me. In quel caso ci starebbe, secondo me. Però, boh, no, domenica l'unica cosa per il personale, abbiamo visto il partito Tretter, anche se Lisley era a disposizione, però McCarthy ha detto che comunque Lisley è il titolare e quindi è stata solamente una decisione presa perché Tretter era il più sano dei due. Sì, poi non abbiamo visto neanche uno screen, per esempio, e anche lì, io dicevo durante la partita, mi è sembrato che si volesse vincere in un certo modo, ossia insistendo su certe cose e non su altre. Come una cosa del tipo, ok, gli screen so che li sappiamo fare, li lasciamo perdere, proviamo le altre cose. E ci sta, cioè nel senso, la regular season, nel momento in cui comunque sei anche già ai playoff, serve a fare in modo che tu riesca a fare meglio le cose che dovrai fare dopo quando conta davvero, per cui non vedo tutto questo scandalo. Sull'attacco e sulla difesa invece cosa mi dici? La difesa, ti dico, che è stato concesso qualcosa di troppo, ma si è trattato secondo me di errori individuali anche lì. C'è della E serie. di un campo infame, Sì, vabbè, addio, il campo infame era per tutte e due, dai. aggiungo. Certo, infatti hanno sbagliato anche loro. Però alla fine 120 yards concesse su corsa, Murray ha fatto 21 corse e 78 yard, corso 3,7 di media. E 4 corse e 42 yards per Carr invece. Quindi mi viene da pensare, speriamo di non incontrare Wilson ai playoff. Non dirla due volte. Non dirla due volte che devono passare da noi. Vabbè, magari vengono sbattuti fuori prima, io dico quello. Ah, è più facile quello, forse adesso come adesso, però vabbè. Poi, per esempio, passing rating differential, che è così importante per Capers, Carr ha fatto 63,8, quindi ha fatto persino peggio di Rodgers. Due intercetti e due TD per Amari Cooper. Anche lì, Cooper, 9 target, 6 ricezioni, 120 yard. Beh, Sì, una è bestia. una bestia. Cioè, a parte, non c'è un cazzo da dire, nel senso, è veramente un grande giocatore. Però Randall era sempre lì passo passo. Se proprio gli è mancato il guizzo, che ne so, avrebbe potuto spingerlo sulla linea di scrimmage anziché fare la gara di track and field. Abbiamo fatto due intercetti, ne abbiamo droppati almeno altri due, almeno. Visto che le nostre secondarie domenica avevano due rookie come starter, mi pare. Randall, vabbè, alti e bassi, possiamo dire alti e bassi, anche se c'era la pick six e anche se aveva appunto una bestia davanti. Quinton Rollins, insomma, è tanta roba domenica. Sì, poi lui in Tanta. realtà vai a vedere, è stato targettato 10 volte, concesso 6 ricezioni per 70 yard, però allo stesso tempo ha fatto o due o tre pass breakups, aveva quasi preso un altro intercetto, è comunque un giocatore che, non dimentichiamolo, gioca a football da 2 anni, cioè il primo Sì, da... incredibile. Per esempio, ha giocato benissimo secondo me anche Hayward, che ha giocato il 97% degli snap perché abbiamo giocato praticamente sempre in nickel e dime, nella 3-4 base abbiamo fatto due snap, però ha giocato molto bene, penso abbia giusto sbagliato un placcaggio. E Hyde ha preso quell'intercetto, ha fatto quel ritorno bellissimo, ha fatto anche un paio di ritorni di punt, 24 yard in tutto. Per cui in realtà si può dire che la prova della difesa, dei giocatori di difesa che giocano negli special teams, insomma, per dirla così, è stata abbastanza buona. Poi, per carità, ho trovato stupido lasciare il buco centrale in difesa su Mamma quella, su mia, quella draw. clamoroso, Detto, proprio. anche mentre Mamma mia. guardavo E dicevo, boh, ma perché lasciano tu quel buco lì? Però vabbè, insomma. Clay Matthews? E Clay Matthews non si è visto, tu l'hai visto? No, Virgola. Zero tackle e tre sbagliati. Diciamo che, ecco, anche lì, quando la difesa va bene con Clay che praticamente non si vede, è un dato positivo anche quello, dai. Beh, potrebbe essere un dato positivo. Su Jack Ryan, invece, guarda, io. A me non è piaciuto tantissimo domenica, guardandolo in diretta. Poi ascolto gente che ne sa più di me, ESPN ne parlava abbastanza male, ok? Mentre McGinn ne ha parlato molto bene. Si è rivisto Peppers? Si è rivisto abbastanza bene, anche se anche lì io ho guardato le statistiche alla fine, ah, 2 sec e mezzo, non me ne ero accorto. Cioè, della serie lo fa sempre molto. Sì, beh, non sono stati change in play perché non ha forzato fumble, magari non sono state giocate che hanno cambiato la partita, forse. Però, visto che nelle ultime settimane era un po' latitante, si è visto lui, ho visto bene Elliott, forse un po'. No, scusami, Mike Neal mi è piaciuto domenica molto a me. Sì, sia sulle corse che sui passaggi, è stato ovunque praticamente. BJ Raji invece ha giocato molti meno snap del solito. Il mio uomo Mike Pennell ha ancora fatto delle buone giocate. No, vabbè, ho detto te, non ho mai giocato in base defense, quindi praticamente è sempre stata praticamente una 2-4, praticamente. E mi pare Mike Daniels, fresco del rinnovo, ha avuto due pressioni e mezzo. Senza infamia ne lode complessivamente la defensive line, mi pare di dire. Sì, infatti, ma guarda, io se mi dai qualcosa dove firmare, firmerei per avere sempre la difesa così, per cui non Ah c'è beh, ma più problema. che altro per come eravamo abituati, sì. Sinceramente quest'anno abbiamo, cioè, mentre l'ha detto Bakhtiari nel suo show radiovisivo, no, no, Radiofonico, non so cosa. nel suo show radiofonico, sai che lui ha uno show radiofonico, cioè, io sono qui da 3 anni, sostanzialmente nei primi 2 anni era l'attacco che mandava avanti la baracca e faceva bello e cattivo tempo, quest'anno abbiamo uno special team e una difesa che sono ottimi, è un attacco che magari potrebbe crescere. Però effettivamente, se tu vedi i numeri, a difesa e special team per la nostra squadra sono sempre sufficienti per arrivare a Santa Clara sulla Sì, carta. sì, sì, sì. Però sì, cioè alla fine per quello non riesco a capire perché devi andare davanti alle telecamere incazzato dicendo praticamente sta cadendo il mondo. Hai vinto, due terzi della squadra giocano bene, il restante terzo che ti compete neanche così male, chi se ne incula? Cioè nel senso sii contento per il risultato della squadra e dopo se proprio fai la sfuriata in separata sede con McCarthy che poverino non ti fa fare quel cazzo che vuoi. Poi anche da dire che delle ultime quattro partite, tre le hai giocate sotto la pioggia, che comunque per il nostro tipo di gioco sono abbastanza penalizzante. Ok, magari può incidere un po' anche quello. Sì, secondo me è un boh, non so se sia nervoso, se sia felice nessuno che è geloso che il fatto che passa di tempo con Livia, ma non lo so che problema abbia le sue cose, non lo so. Però sì, non è l'Aaron tranquillo dell'anno scorso. Bah, e invece passando ad Arizona? Prima di passare ad Arizona, la classica per la disabilità. Carissimi, ho preso a cuore il problema del ricevitore. Secondo me noi dovremmo schierare direttamente da Marius Randall come ricevitore. Tanto prende tutti i palloni di tutti i quarterback, anche se non lo cercano, figurati se cercasse di prendere quelli di Rodgers. Ecco qua, Gianni. Beh, manca mai Gianni. Nostro consulente di fiducia. No, Arizona, per tante, oh, per alcuno è una partita che non ha nessun significato, perché dice Arizona comunque non è già ai playoff, okay? Seconda cosa, anche se dovesse perdere contro di noi, in ogni caso l'ultima partita ce l'ha contro Seattle e anche se la perde sostanzialmente vince la division, ok? Per loro, per tanti, sarebbe una presa un po' senza quel significato che si cerca di dargli. Perché noi fondamentalmente vincendo saremmo ancora in corsa per il seed numero 2. Non lo so, sono un po' combattuto, sinceramente. Allora, intanto vabbè, sarà difficile, o meglio, dovrebbe essere difficile sulla carta per via dei valori in campo, perché loro hanno un ottimo attacco, una buona difesa che sarà comunque priva purtroppo per loro di Matthew o Sì. Mathieu. Però, non lo so, io non ce lo vedo molto McCarthy che prova di tutto per vincere questa partita contro avversari che potrebbe incontrare più avanti. Nel Ci è senso già che... capitato nel 2009 giocare contro le zone e ritrovare la settimana dopo, non è andata bene. Esatto, cioè della serie, chi cazzo te lo fa fare di aprire il playbook per provarle tutte e vincere contro una squadra che sì, magari vinci, prendi il seed numero 2, ma magari no. Cioè, nel Guarda, il seed senso. numero 2 a me interesserebbe perché comunque vorrebbe dire una settimana di riposo. E per visto che comunque fisicamente non siamo al massimo, una settimana in più di riposo ci farebbe bene, ok? Dopo c'è chi dice che la settimana di riposo potrebbe boh, raffreddarti, però di freddo il nostro attacco è già, quindi Infatti. ancora di peggio, la vedo dura. Non lo so, sarà una presa interessante. Loro hanno un bellissimo attacco, secondo me è molto bello anche da vedere, perché vanno spessissimo sul profondo, hanno dei ricevitori, hanno un fenomeno che è il Fitzgerald, che adesso l'ho detto, mi sono morsicato 3 volte la lingua, e dei ricevitori giovani, molto pericolosi e molto veloci, che sono John Brown, mi pare, Ah, te lo ricordi quello che mi ha fregato il fantasy, quello che ti ho certo, fregato a ecco. Fantasy, esatto. Un altro Brown, non mi ricordo quale, come si chiama, hanno un certo Nelson, che io non conosco, e Malcolm Floyd. Quindi se sono davanti, sono messi molto molto bene. Poi sulle corse hanno perso Chris Johnson, fino eventualmente al Super Bowl, però hanno scoperto questo David Johnson, o Derek Johnson, che non mi ricordo, David, che è il David rookie. Johnson che ha fatto disastro nell'ultima partita. Il Carson Palmer sta facendo una bellissima stagione, però anche, è un gatto di marmo, quindi in teoria non dovremmo preoccuparci degli scramble, sicuramente. E la linea offensiva è buona, ma non ottima. Infatti, non lo so, sono combattuto anch'io su questa partita, nel senso che mi piacerebbe che andassimo a vincere lì, però allo stesso tempo non mi cambia, cioè non cambia molto, anche perché se loro poi vincono contro Seattle... Sì, esatto, una vittoria fine a se stessa, fondamentalmente. Tu comunque te la giocheresti contro Minnesota all'ultimo, dato per scontato che Minnesota vinca contro i Giants domenica come Sunday night, e tra l'altro Giants senza Odell Beckham Jr., che trovo ridicolo, perché secondo me doveva essere cacciato fuori lui e anche Norman domenica scorsa, invece ne beneficeranno alla fin fine i Vikings di questa cosa qui, anche se per come si sono comportati non è che si possa biasimare per la squalifica. Cioè, una vittoria sicuramente aiuterebbe la confidence, perché andare a vincere in casa di Arizona sicuramente farebbe del bene. Non sarebbe fondamentale, sicuramente fondamentale. Sì, infatti per quello ti dico, cioè si proverà a vincere come si prova a vincere ogni partita, ma senza cercare di strafare, secondo me. Non si vedranno schemi della Madonna, cioè della serie. Si prova con l'ordinaria amministrazione, secondo me, sempre, in attacco, e poi si vede. Nel senso, alla fine davvero, perché aprire il playbook per una partita che conta fino a mezzogiorno, insomma, non conta niente. Quindi tu non lo rischieresti Bakhtiari, che sembra, il cui infortunio non sembra così grave, ma neanche da trascurare. Ecco, lì diciamo che ci sarebbero un po' di ripercussioni a pioggia, nel senso che con Barkley dentro rischi anche di ammazzare qualcun altro in attacco, però. Allora là, addio stagione. Ecco, No, cioè. però adesso, scherzi a parte, è una partita difficile da interpretare, perché appunto, sì, se avesse qualcosa da cambiare, cioè, noi pensavamo che la sconfitta, cioè se, che Arizona perdesse contro di noi e poi perdesse anche con Seattle, cambiasse sostanzialmente le cose. Invece Seattle, fondamentalmente a Seattle non cambia niente il fatto di andare a vincere Arizona. Perché mi pare sicuro, se vince domenica, è sicuramente vince, perché mi pare già che contro San Luis, ok, mi pare dovrebbe beccare sicuramente il seed numero 5, perché hanno la partita di vantaggio nei confronti di Vikings, mi pare. Adesso potrei sbagliare, ma mentre non ricordo com'è la classifica. Sì, penso siano pari quanto vinte e perse, ma avendo vinto lo scontro diretto si attua il tiebreaker, insomma. Ecco, esatto. Quindi la situazione di playoff è abbastanza delineata per chi ce l'aveva chiesto. Ecco, Carolina seed numero 1, Arizona diciamo al 90% seed numero 2, e seed numero 3 dovrebbe essere in teoria nostro, o se non è nostro, di Vikings. Sì, di chi Il vince la 4, Nord, insomma. esatto, il 4 va a chi vince la lista. A questo punto sembrerebbe favorita Washington, però anche lì è ancora tutto aperto per Giants e Philadelphia. Il 5 dovrebbe andare a Seattle e il sesto seed va praticamente a chi perde la Nord. Quindi è abbastanza delineata la situazione dei playoff in questo momento. Quindi per dire, se io ti dicessi davvero, meglio il sesto seed, giochiamo sempre in trasferta. No, una partita a Lambo io la farei. Lambo ha sempre il suo fascino a gennaio. Più lo vediamo, più lo vedo, più contento sono. Il fatto è che appunto a volte sembra davvero che si ritorca contro, nel senso che se la squadra va bene, cioè se l'attacco sta giocando bene, eccetera, è una bolgia e tutto il resto. Se invece appena appena si fa due three and out consecutivi, tutti silenzio, tutti si addormentano. Vabbè, quello è un problema dei vecchi season ticket holders, ne abbiamo già parlato, però. Però vabbè, dai, allora, prediction, Pronostico. ecco, sono combattutissimo, però. Io ti dico, ah, tra l'altro vorrei anche dire che 2 settimane consecutive che non azzecco il risultato esatto, ma la differenza punti sì. Cosa avevi detto? Avevo 27-17? detto 24 a 24. 14, Ah. quindi ti dico che perdiamo 28 a 21. Mamma mia, per il cielo. No, pareggio. 11-11. 11 a 11, frutto di. 3, boh, un po' di field goal, un po' di extra point sbagliato, due safety e poi i supplementari non vince nessuno. No, non lo so, però io vorrei vincere, sinceramente, perché vincere ti fa sempre star meglio che perdere, in qualsiasi caso. Però sì, non vorrei appunto aprire il playbook troppo. Ma guarda, conoscendo Mike non c'è pericolo. No, beh, magari sai cosa, magari sta sperimentando, perché magari, cioè, voglio dire, siamo sempre lì, non sarà sicuramente un great coach, ma è sicuramente un good coach, ok? E non è neanche stupido, che se ne voglia dire, ok? Non vuole, penso vada in campo per perdere, ok? In questo momento forse l'attacco è il suo, sa benissimo quali sono i problemi, meglio di tutti quanti, e quindi sta cercando di voler gestire quello che può gestire per buttare tutto quello che rimane. Nei playoff, poi può essere anche da one and done, amore di Dio, è una partita. Alla fine il consiglio che io mi sentirei di dare a tutti è relax, della serie che si scannino tra di loro, ma noi almeno non facciamo del casino tra di noi, perché tanto non cambia un cazzo. No, fondamentalmente no. Senti, senti come sono natalizio in queste Sì, se non sei più te, cioè parole. si stanno invertendo i ruoli, non mi piace questa cosa qui. Non mi piace questa cosa Dai, qui. io penso che Buon sia Natale a tutti, arrivato. è la Esatto. puntata prenatalizia, quindi buon Natale anche del PFN. Pensa te. Mamma mia, siamo ne abbiamo fatta di strada, eh? Ah, tra l'altro, Salutiamo anche se c'è qualcuno davvero che ci ascolta da Playit, visto che siamo anche su Playit adesso. Quindi la prima puntata che pubblichiamo anche lì. Ciao a tutti, anche voi sarete one and done, cioè magari ci ascoltate questa volta e poi basta, però. Niente, cosa dici? È arrivato il momento? Certo, go per go. Sempre. Ovviamente il saluto finale è del grande, mitico, fantastico Felice Nessuno. Noi ci sentiamo alla prossima. Buon Natale, go pack. Ciao Matt. Ciao, Sara. Ciao a tutti, sono Felice Nessuno. Anche questa settimana sono qui su IPFN per parlare di una vittoria dei nostri Green Bay Packers. Una vittoria raggiunta e conquistata in una terra che quest'anno ci è molto favorevole, ovvero la California. Speriamo che continui ad esserci favorevole anche a gennaio, dove appunto a Santa Clara si giocherà il 50° Super Bowl. È una vittoria che purtroppo ancora non convince, a causa di un attacco veramente, veramente in difficoltà. L'unica persona che ho visto così in difficoltà probabilmente è stata BJ Raji quando gli è stato detto che dovrebbe mettersi a dieta. L'alchimia tra Rodgers e i ricevitori ancora fatica a trovarsi. E, a quanto sembra, Rodgers sembra arrivato ai ferri corti anche con Mike McCarthy. Starà passando un brutto, bruttissimo periodo. Perché oltre alla vita sportiva, dove appunto si parla del brutto rapporto con l'allenatore, anche a casa, con la sua fidanzata Olivia Moon, non dovrebbe essere tutto a posto. Sì, perché la Moon passa più tempo da me che da Rodgers. Una vittoria che anche questa volta è arrivata grazie a una super difesa, capace soprattutto nel primo quarto di forzare due intercetti, di cui uno riportato in end zone. Questa difesa è guidata, a mio modo di vedere, non da dei veterani, ma da due super rookie cornerback, ovvero Rollins e Randall. Sì, perché questi due rookie, nonostante la giovane età e la poca esperienza in NFL, hanno dimostrato di avere una testa e un carattere veramente, veramente formidabili, associati a quattro coglioni enormi che neanche le pance di Gaillon e di Mike Daniels fanno pari. Piccola menzione d'onore, comunque, a mio modo di vedere, va a uno che domenica è stato un nostro avversario, ma che nel resto della sua carriera è stato anche un grande Packers, ovvero Charles Woodson. Sì, perché è notizia fresca fresca, della fine della partita appunto tra Oakland e Green Bay, che l'ex Packers appunto ha annunciato il suo ritiro dal football giocato. Una carriera straordinaria la sua, che ha portato per fortuna a vestire i nostri colori, con i quali ha vinto il suo unico Super Bowl. Probabilmente un giocatore così avrebbe potuto continuare per altri 3-4 anni, ma forse ha deciso di ritirarsi nel momento giusto, perché rimarrà comunque un giocatore che fino all'ultima partita ha dimostrato di essere uno dei migliori del suo ruolo e dell'intera lega. Speriamo sia un ritiro vero e non come altri ritiri che sono successi, ma di questo non parliamone. Siamo giunti all'ultima puntata prenatalizia e augurandovi un buon Natale e delle felici vacanze, volevo dedicarvi una poesia scritta così da me, alla quale però non ho ancora trovato un titolo. Lancio quindi un contest, una specie di contest, il Trova il titolo alla poesia, dove potrete commentare, secondo voi, se volete, il titolo di questa mia scrittura o sul post di PFN della puntata di oggi o, se volete, sul mio profilo Facebook Felice Nessuno. Ringrazio anche di tutti i commenti positivi e negativi che mi arrivano ogni settimana, perché è anche grazie a voi se posso crescere. Vi lascio dunque alla poesia scritta da me. Buon Natale e a risentirci. È Natale e tutto tace. Bakhtiari è un incapace. Aaron Rodgers è divino, sembra quasi Gesù bambino. In sideline a comandare c'è McCarthy ad imprecare. A droppare è una costante, non tiene un cazzo il buon davante. Con Rollins e Randall in copertura la vittoria è ormai sicura. Mike Hyde i suoi intercetti li riporta a denti stretti. La nostra linea di difesa, porca troia quanto pesa. Eddie Lacy, giù la testa, agli avversari fa la festa. I claymaker e i suoi capelli, di vagina, fan sfracelli. Le due safety fan spavento, sembra un muro di cemento. A prendere yard c'è Randall Luccio o James Jones col suo cappuccio.